con qualche minuto di ritardo queste schegge, e stasera veramente erano impazzite per tutto per una serie di concatenazioni negative che mi sono capitate. Vabbè, poi alla fine ce l'abbiamo fatta e finalmente siamo qui, siamo in studio insieme ad un graditissimo ospite. Questa sera, ecco, schegge impazzite, e così come dice il nome, insomma, sarà più, diciamo, votata verso la cultura, e però insomma la musica avrà la sua parte, perché comunque parleremo questa sera di un libro e di un autore che dalle parti nostre è abbastanza quotato, insomma ha vinto diversi premi. Stiamo parlando di Elio Forcella. Voglia di correre è il libro di cui parleremo. Diciamo, Elio, che Voglia di correre sarà un po' il nostro canovaccio musicale, vero? Però insomma parleremo anche di altro. Sì, innanzitutto vorrei salutare te, gli ascoltatori, i radioascoltatori, e ti dico, sono un po' emozionato perché mi ha fatto ricordare parecchi anni fa. Elio, un altro DJ, un ex DJ, no. Vedi, lo vedo emozionato, infatti. Parecchi anni fa, quando io e Emidio, che tu conosci, l'amico Emidio Balducci, iniziammo ad Atri la prima radio libera, era negli anni 80, adesso non ricordo bene l'anno, ma iniziamo appunto con la prima radio libera e poi... No, io direi prima degli 80. Sì, forse era sì. Intorno dai, al 77, 78. Dici le tue sensazioni, dai. No, è diverso. Sono sensazioni simili, però diverso, perché chiaramente noi stiamo con un mixer, ti lascio immaginare quale, sotto uno scantinato, con dei microfoni che dovevamo regolarci noi, era tutta una cosa... Sì, allora, diciamo che io durante i miei programmi, anche con Vincenzo, insomma, parliamo di queste novità tecnologiche che ci hanno in qualche modo, come dire, ci hanno ridato un po' di coraggio, perché tu sai meglio di me, no? Tenere una radio FM era una cosa quasi impossibile, tant'è che poi alla fine i grossi sì. Network hanno fatto man bassa. Queste, le web radio, praticamente hanno ridato fiato un po' a quelli che hanno voglia di fare formazione, musica, e in più ormai ci ascoltano in tutto il mondo. Allora, Elio, parliamo di tempo, dai. Tu di me? Dici. Sì, no, parliamo di te, di quando è che ti è scoppiata questa voglia di scrivere. No, allora tutto è iniziato quando ho cominciato a fare teatro, in cui c'eri anche tu, penso, nel Teatro Minimo, quindi anche quando sono arrivato io tu eri già andato via, credo. E da lì è partita un po'... Mi è ritornata una voglia che avevo da ragazzo, sai, tutti quanti scriviamo poesie, e mi è ritornata questa voglia di scrivere più che di recitare. Per un periodo ho recitato, poi mi sono dedicato alla scrittura teatrale con ottimi successi, sì, devo dire. Beh, vabbè, vabbè, lo dico io, dai. Certo, devo dirti che il Flaiano è una grossa soddisfazione, perché, altra parentesi, sono l'unico abruzzese che ha vinto il Flaiano per il teatro, quindi è stata una grossa soddisfazione, lo confesso. Il premio Flaiano, insomma, per chi non è un addetto ai lavori, insomma, è un premio ambitissimo, è un premio che Elio si è aggiudicato con un lavoro splendido, secondo me, che era Tumà. Sì, esatto. Giusto. Poi Carlo, vedi, dal teatro questo irreprimibile bisogno di scrivere, e quindi sono passato piano piano a una scrittura più ampia, perché tu sai benissimo, scrivere per teatro è molto diverso da scrivere un romanzo. Io mi sento sempre un autore teatrale soprattutto, però mi sto cimentando anche in questo campo. Ti vorrei dire solo che cosa significa per me scrivere, se posso. Come no? Siamo qui apposta. Allora, scrivere è come che ti devo dire, è come difficile, è come fare un viaggio, intraprendere un viaggio senza una meta prestabilita, cioè inizi un viaggio con dei compagni che ti accompagnano, appunto, ma che non conosci, che impari a conoscere mano a mano che il viaggio procede. Ma la cosa strana è che quando arrivi a questa meta, ti ripeto, non prestabilita, ti viene la voglia di ripartire, non ti fermi, ti viene la voglia di ripartire, di cominciare un altro viaggio con altri compagni, con altre mete non prestabilite. Questo per me è scrivere, ma se mi consenti Carlo, è anche un po' leggere. Per me c'è una grossa differenza fra scrivere e leggere, sicuramente, però questo senso del viaggio, di quando scrivo o di quando leggo, è presente in tutte le due cose. E io sì, io concordo pienamente dalla parte di qua, nel senso dalla parte del lettore, e dico che sì, in effetti lo stesso mi accade come lettore, nel senso io il libro lo intraprendo come un viaggio e non so poi dove mi porterà questo. Esatto, è così la scrittura per così me. È la scrittura, sì, sicuramente. Vabbè, poi c'ho anche un'altra domanda, ma lasciamo spazio alla musica. Perché questo brano qui? Perché fa da incipit al romanzo di cui parleremo stasera, che si chiama Voglio di correre, è Blowing in the Wind di Bob Dylan, e fa proprio l'introduzione del romanzo. Perfetto. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Quante strade deve percorrere un uomo prima che lo si possa considerare tale? E quanti mari deve sorvolare una bianca colomba prima che possa riposare nella sabbia? Elio. E quante volte le palle di cannone dovranno volare prima che siano per sempre bandite? Esatto. La risposta, amico mio, sta soffiando nel vento. Questo è l'incipit di Blowing in the Wind, e dicevamo il romanzo di Elio è un romanzo, quanto c'è di autobiografico? Sì, è piuttosto l'autobiografia di una generazione. Ah, ecco. Questa cosa la immaginavo, infatti. Non... cioè, di quella mia generazione che ha vissuto quel periodo, quindi gli episodi riportati nel romanzo non sono miei, nel senso vissuti personalmente, ma sono vissuti dal gruppo, dagli amici, dai compagni. Sì, ecco, una cosa interessantissima di cui che voi potete ritrovare sul romanzo, credo proprio che sia questo, cioè il senso del gruppo, il senso della comunità, dell'unità. E credo che sia un po' questa il discrimine, no, tra quella generazione e queste generazioni. Carlo, questo non lo so, però io ho cercato di ripercorrere 50 anni di storia, possiamo dire, però non della grande storia, cioè della piccola storia, ovvero quella vista attraverso il buco della serratura di un piccolo paese del centro-sud. Potrebbe essere Atri, ma che so, Pineto, Roseto, Penne, Lanciano, insomma. Quella storia vissuta nei piccoli paesi. Come... Quindi non nessuna volontà didascalica, nel senso che nessuna volontà di insegnare qualcosa a qualcuno? Assolutamente no, assolutamente no. Non è un romanzo di formazione, è un lungo racconto, questo sì, però visto, ti ripeto, visto con il disincanto dopo 50 anni di quel periodo che ho vissuto. So che ci volevi leggere un piccolo estratto. Prima abbiamo parlato di radio e appunto, siccome c'è un capitolo che si chiama Caos, che è Radio Caos, la radio che avevamo ideata noi. Ma io c'ho, tu non lo sai, adesso ti faccio una sorpresa, una carambata. Io c'ho una foto di Radio Caos. Che no, poi si chiamava un altro nome, nel romanzo funzionava, sì, meglio, sì, Radio, sì. Caos. La nostra radio doveva essere uno strumento di lotta per la costruzione di un altro mondo possibile. Non eravamo riusciti a darle un nome, chiamandola genericamente alternativa. La sede si trovava in un abbaino di proprietà del partito, era composta da due piccole stanze. La prima, striminzita, era interamente rivestita da copertine di 33 giri. A malapena eravamo riusciti a piazzarci una piccola console. La seconda, un po' più grande, era comunicante con la prima. Al centro c'era un tavolo circondato da sedie e un microfono che pendeva dal soffitto. All'inizio non avevamo il telefono, ci servivamo di una cassetta per la posta. Chiunque, in un foglietto, poteva esprimere le proprie idee o protestare, fare richieste e stilare la propria scaletta musicale. Trasmettavamo principalmente musica rock in tutte le sue varie forme, progressive, hard, elettronico, e anche cantautori italiani. Andavamo in onda in qualsiasi ora del giorno e della notte. Io curavo una trasmissione delle 2 di notte in poi, indirizzata ai ragazzi nottamboli come me. Guarda, sta cosa mi fa venire i brividi, perché poi quella sede lì che dici tu fu ristrutturata, io e il mio amico qui dietro la facemmo diventare Radio Express, giusto Carlo? Quando c'erano già più fondi a disposizione. E, no, è bellissimo questo passaggio, perché ci riporta un po' indietro e credo che sia emblematico di un paio di generazioni, nel senso, sì, che sì, è vero, prima abbiamo parlato di una generazione, ma in effetti sì, sono almeno un paio di generazioni, un paio se non tre, sì. Sì, la radio per noi fu veramente uno strumento di lotta e di libertà, sicuramente. Per noi era... No, io mi sorgevo un dubbio, ma la mattina a che ora ti alzavi? Sì, alle 2 di notte. Allora ero un disoccupato volontario. Il famoso disoccupato volontario. Quindi alzavo alle 2, alle 3 con le cazziate di mio padre a non finire. Sì, no, anche questa è una cosa che torna. Sì. È una cosa che torna. Alla... Però vedi, allora eravamo appunto disoccupati per scelta.

noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo foreste, coltiviamo savane, le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontane. Da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. E siamo noi, noi a far bella la luna, con la nostra vita coperta di stracci e di sassi di vetro. Quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un insulto, come un ragno nella stanza. Riprendiamola in mano, riprendiamola intera, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. Era il 1975 quando Lolli, insieme a un gruppo abbastanza, diciamo, nutrito di musicisti, che apparteneva tra parentesi al collettivo autonomo musicisti di Bologna, incise questo album. Lo spiego in 3 secondi: la metafora degli Zingari Felici era un po' la metafora di una generazione, appunto, quella generazione degli anni 70, che uscita dal 68 si trovava un po' disorientata in qualche modo e si avviava purtroppo verso anni di piombo che sarebbero stati cari all'intera generazione, realmente, è vero Elio? Sì, molti si integrarono nei partiti, che è ancora peggio forse, trovarono la loro strada, molti, come dici tu, per fortuna non tutti, negli anni di piombo, nel piombo appunto, e molti rimasero sbandati come me e come altri. Sì, io mi ricordo poi in quel periodo, infatti quel periodo è stato connotato un po' da una serie di fenomeni di nicchia, direi, perché mi ricordo tra gli autonomi, quelli che poi entrarono nella clandestinità, quindi entrarono nelle Brigate Rosse, ma anche Prima Linea. Poi c'era il movimento del 77, mi ricordo un grossissimo happening a Bologna, appunto, sì. Dove lì deflagrò un po' tutto, e anche poi il fenomeno degli indiani metropolitani, eccetera. I giovani erano proprio alla ricerca di una strada, Carlo, una via. Carlo, ti dirò di più: qualcuno addirittura si rifugiò nella droga, sì, è vero. Droga o religione pure, che sì. È la droga ben peggiore. È vero. Anche io ho avuto un passaggio clericale, diciamo, chiamiamolo così. Chiamiamolo spirituale, va, clericale. No, purtroppo no, purtroppo non è stato. È vero che quel periodo leggevo Siddhartha di Hermann Hesse, quindi ero come preso, tutti. Come tutti. Lì ci siamo passati tutti. È stato il libro cult di parecchie generazioni. Però ti dico, proprio per questi sogni spezzati, d'altronde noi, molti di noi, specialmente in provincia, eravamo legati al Partito Comunista, alla FIGC soprattutto, e quando il partito cominciò il suo trasformismo verso quello che poi sarebbe stato la ricerca del compromesso storico, eccetera, si sentimmo un po' traditi da questo, quindi sbandate, questo sbandamento vediamo qua, perché quel sogno di cambiare il mondo, vediamo che stava fallendo miseramente, quindi. La cosa interessante del tuo libro è questo legame a doppio filo, appunto, tra il racconto e la musica, cioè è indubbiamente, no? La musica ha fatto da colonna sonora alle nostre vite. Sì, questo, ma di tutte, cioè penso che come arrivi la musica nel profondo dell'animo non ci arriva nessun'altra arte. Io l'arte di per sé è stupenda, le arti figurative, la scultura, tutto quello che vuoi, Carlo, ma penso che la musica arriva prima e più in profondità. Sicuramente questo è vero, questo nel senso che è molto più immediato, e poi, come diciamo spesso, no, è un linguaggio universale. Bravissimo. E poi, Carlo, alla musica, poi tra virgolette, sono legati molti episodi della nostra vita. Non ti succede a te, a volte a me mi succede ascoltare canzonette che allora odiavo, ma che adesso continuo a odiare, però c'è una forma di nostalgia perché ti ricorda un determinato periodo. Quindi la musica ha un potere immenso. Questo sì, è un potere, come dicevi tu, un potere evocativo immane. E poi comunque la musica, credo che soprattutto per la nostra generazione abbia rappresentato anche quella che poi i sociologi, insomma, chiamano subcultura, no? Comunque una serie non solo di brani, di artisti, di fenomeni musicali, ma soprattutto di riferimenti socioculturali. Per noi quindi ascoltare una determinata musica era essere di un determinato giro. Ma, comunque, Carlo, lo è stato sempre. Tu pensa al fenomeno punk che poi esplose dopo, che esatto. Era anche un modo di vita, come lo è stato per noi il fenomeno dei Beatles. Sì, infatti tu hai citato, ma hai fatto bene a citare il punk, perché comunque nei miei studi sociologici, ma anche nei miei insegnamenti sociologici, l'ho citato spesso, perché il punk è una subcultura che viene additata appunto come cultura del rifiuto, quindi una cultura di rottura col sistema. Esatto, lo status quo, il famoso status quo. E adesso che ci ascoltiamo? Adesso ti faccio sentire, rifaccio rifare il DJ. bellissimo. Direi Stairway to Heaven di Led Zeppelin. Perché? Perché questa canzone, secondo me, dal punto di vista del tutto personale, unisce le due anime della musica che piace a me, cioè nel senso quella, diciamo, delicata, come questo che ti arriva questo nel intro, cuore, e quella che esplode. Sì. In questo brano trovi la musica che ti dice, che ti fa dire basta, che ti fa uscire fuori e gridare, ma anche quella che ti fa entrare dentro di te. Grande Elio, bellissimo. Makes me want

Sicuramente un brano evocativo, no? Sicuramente un brano che ti riporta un po' indietro nel tempo, però allo stesso tempo, scusate il bisticcio di parole, c'è questa sorta di anche modernità insita in questi brani qua. Sì, insomma, sembra un po' retorico, ma in effetti sono brani immortali, vero Elio? Io credo che quando si tratti di buona musica è sempre immortale. Questo è vero. Questo no, è veramente vero. Carlo, poi con il passare degli anni, non sono più giovanissimo, adesso riesco ad apprezzare molti stili musicali che prima invece rifiutavo a priori, e sono contento di questo. Perché sì, questo è un discorso che ho fatto nel mio vecchio, nel corso di un programma delle mie schegge. Ho ripercorso un po' gli anni 60, 70, 80 attraverso la musica, e in effetti anche io facevo la stessa, come dire, la stessa osservazione, no? Dicevo, in quel periodo eravamo un po' settari per la musica, sì. Io mi ricordo Emilio, no? Diceva no questo è troppo commerciale, quest'altro. Poi in effetti, come dici tu, in fondo magari la canzonetta che aborrivi, no? Che dicevi adesso ti riporta alla mente determinati episodi, e anche cominci ad espandere la tua visuale a livello musicale, artistico, con il passare degli anni. Ma questo, Carlo, non solo con la musica, poi arriva anche con le altre forme espressive artistiche, cioè riesci a, e questo è importante, ad osservare, ad entrare nell'opera d'arte se è opera d'arte. Ma io credo che sia giusto, sia inevitabile, ma allo stesso tempo giusto, nel senso che era giusto anche quel periodo in cui noi eravamo, come dire, ribelli, ecco, mettiamola così, perché, rivoluzionari. Sì, perché è giusto che i giovani siano rivoluzionari, che tendano ad abbattere quello che c'era, certo, prima. Questo è, vabbè, Marx ne ha fatto proprio una linea filosofica, proprio quella del contrasto tra le varie generazioni. Senza contrasto non c'è crescita. Ma è giusto anche poi che poi a una certa età... Ecco, io diffido sempre da quelli che da giovani sono già... Da giovani vecchi. Sì, sono già, sanno tutto. Ma guarda Carlo, non penso poi che sia un fatto di... Sì, hai ragione che quando sei giovane deve essere così, cioè vuoi sconvolgere quello che trovi, giustamente. Ma credo che poi non sia un fatto di età, sia un fatto di crescita. Sì, appunto. Di crescita. E crescendo riesci anche ad ampliare quello che prima era un percorso quasi obbligato, invece riesci a allargare questo percorso e diventa un percorso libero. Tu hai toccato un tasto prima, ne stavamo parlando, poi anche a microfoni spenti ne stavamo parlando, e cioè la nostra vita, la vita di determinate generazioni è stata plasmata dalla musica e dalla politica. Dall'una o dall'altra parte, non difficilmente per noi giovani, per giovani di quel periodo c'erano vie di mezzo. E credo che tu voglia fare una piccola lettura di questo tuo... Sì, ti leggo un episodio di quel periodo che si riferisce a una manifestazione sulla resistenza, una delle poche devo dire, tenutasi nel nostro capoluogo di provincia. Vai, vai. Con pullman organizzati, i compagni erano arrivati da tutta la provincia. Ciascun gruppo, in particolare il nostro, aveva avuto precise disposizioni. Eravamo in pieno compromesso storico e la linea politica del PCI, Partito Comunista, prevedeva toni più concilianti e morbidi. Durante il corteo, dunque, era vietata qualsiasi contestazione nei confronti della Democrazia Cristiana, il partito al potere da più di 20 anni. Non si potevano gridare slogan contro di essa. Ci era stato consegnato un foglio ciclostilato che conteneva quelli consentiti. Ma per noi erano troppo rassicuranti, nostrani e mollicci. Viva il glorioso Partito Comunista di Togliatti, Longo, Berlinguer. Viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong, gridammo invece. e gettando i fogli aggiungemmo urlando ancora più forte: il 25 aprile è nata una puttana, l'anno chiamata Democrazia Cristiana. Fu come se l'intero corteo non aspettasse altro che quel segnale. In un baleno tutti buttarono il loro foglio e si unirono a noi scandendo all'unisono il nostro slogan. Poi, prendendoci sotto braccio e correndo, ci lanciammo affolate lungo il percorso per arrestarci davanti alle forze dell'ordine. E mentre i poliziotti agitavano minacciosamente i loro manganelli, noi, senza timore e senza arrestare di un passo, cantammo. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, che tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Sulle mani, su bella ciao! Siete bellissimi! Siete bellissimi! Beh, questi erano i Modena City Ramblers, che sono stati tra parentesi ospiti della nostra città una settimana fa, credo, ed era una rivisitazione di Bella Ciao, questo inno un po' del partigiano, della resistenza, perché dobbiamo naturalmente ricordare che questa nostra Repubblica è nata grazie anche alla resistenza di diversi ragazzi e ragazzini a volte, e noi siamo cresciuti nel mito, attraverso il mito della resistenza, perché in fondo è stato un mito fondante della nostra Repubblica, storicamente. Questa è una cosa che spesso si dimentica. Storicamente questo era un paese allo sbando dopo l'8 settembre, che aveva collaborato e si era unito al nazismo, e solo grazie alla resistenza, ai partigiani di qualsiasi colore, comunque a quelli che hanno resistito, da qui il nostro chiamiamolo orgoglio nazionale, ma anche la nostra dignità di popolo si è potuta in qualche modo riprendere. Questa è una cosa che ultimamente si dimentica, vero Elio? Sì, ti dirò di più, Carlo. Ho inserito, a prescindere dal fatto che Bella Ciao è inserito nel romanzo, come tu sai, questo romanzo... Ricordiamo come si chiama il romanzo, dai. Voglia di correre. Questo romanzo lo stiamo portando in giro sotto forma di recital e ho voluto inserire anche Bella Ciao, cantarlo, quindi canto io personalmente. Ti dico che purtroppo, in alcune serate, quando abbiamo cantato Bella Ciao, qualcuno si è alzato e è andato via. Non è che mi sia dispiaciuto, però ti fa capire il momento in cui stiamo vivendo. Per me Bella Ciao è un canto di libertà. Hai ricordato benissimo quando hai detto la resistenza fatta da ragazzi, da giovani di qualsiasi colore politico. Non erano solo i comunisti, non erano solo le brigate Garibaldi, ma erano anche altri di altre formazioni. Quindi la resistenza per noi, Bella Ciao, è un canto di libertà. È sicuramente un canto che riporta alla mente sacrifici di una generazione saltata a pie pari, poi, o comunque una generazione che è stata anche duramente colpita sia dalla guerra che appunto dalla resistenza. Bisogna ricordare che dalle ceneri di una dittatura poi è venuto fuori un popolo democraticamente libero, è un popolo che poi si è autodeterminato. Queste cose sembrano cose talmente naturali che poi invece si perdono in meandri assurdi. Insomma, vabbè, meglio sorvolare, perché altrimenti ci sarebbe da passare tutta la notte, come facevi tu dalle 2 in poi il programma. No, hai fatto bene a ricordare che questo tuo libro nasce intanto come opera teatrale e poi passa attraverso un romanzo e poi torna ad essere opera teatrale. Sì, è nato come un monologo teatrale, un lungo monologo che tra virgolette poi è stato premiato nel 2013 come dalla rivista Sipario, che era una delle maggiori riviste teatrali italiane, come miglior monologo dell'anno. Però quando poi l'ho riletto mi sembrava che mancasse qualcosa e allora ne ho fatto appunto un romanzo. Poi però alla presentazione è successa un'altra cosa ancora, cioè a me, Carlo, non è che piacciono tanto queste presentazioni ufficiali dove ci sono vari personaggi politici, anche chi parla, chi presenta, comunque c'è sempre un relatore, un professore che parla, o qualcuno che parla del libro, che ti spiega come il libro. Invece io volevo che parlasse il libro, allora ho preso alcuni brani, quelli che più significativi, con due amici attori, diciamo i nomi, Alberto Anello e Lorena Liberatore, e ho creato dei dialoghi con questi capitoli, quindi ho creato dei dialoghi recitati, e poi con due musicisti che sono Gianni Verzoletti al basso e Antonino Anello alle tastiere, bravissimo Antonino Anello oltretutto, giovane, bravissimo, ne ho fatto un recital praticamente. Lo porto in giro questo romanzo, lo presento, non più come presentazione canonica che siamo abituati a vedere, ma è il libro che parla attraverso la voce degli attori e le note delle canzoni. Ti dico che sta, insomma, dovunque riscuote un buon successo, ma non è tanto fatto il successo di pubblico, ma è che mi dicono mi sono emozionata o mi sono emozionato, e questo è importante. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E

faccio fatica, cerco di abbassare il mio ritmo iniziale. D'altronde la spinta delle gambe non è più la stessa. Il mio passo è diventato pesante, ha perso dinamicità. Distendo più volte le braccia lungo i fianchi, cercando di rilassarmi e allentare la tensione dei muscoli. Con una mano mi asciugo il sudore dalla fronte. Flap, flap. Non riesco a capire cosa sia questo rumore. È molto vicino, dovrei fermarmi. Non occorre che mi fermi, ora so cos'è. È uno sbattere d'ali. Un gabbiano sta volando al mio fianco, accompagnando la mia corsa. Vola così vicino che potrei toccarlo. Ha una curiosa macchia nera perfettamente circolare sopra gli occhi. «Ehi, amico!» Gli faccio un cenno di saluto, ma lui si allontana velocemente. Con un notevole sforzo riesco a raggiungere la sommità della collinetta. La vista è suggestiva. In basso c'è una piccola insenatura, una striscia di sabbia dorata immersa nel verde dei pini che, piegati dal vento, si inerpicano verso l'alto. Il resto è solo mare. Mare calmo. Il tempo è di seguire la linea dell'orizzonte, dove il cielo sembra confondersi con il mare e il vento ricomincia a sbuffare. Il mare si agita, le onde rumoreggiano infrangendosi contro gli scogli. Una spumeggiante schiuma bianca le riveste. Ora il mare è davvero agitato. Ascolto il suo respiro profondo, ne ispiro l'essenza, mentre chiudo gli occhi e trattengo il fiato. Il suo movimento continuo, inarrestabile come il tempo che passa, è dentro di me. E per un istante che mi atterrisce ed esalta, sento di appartenergli, infinitesima parte della sua forza gigantesca, della sua potenza indomabile, della sua grandezza smisurata, del suo movimento senza fine. Beh, questo è Elio, questo è ad hoc. Per una radio che si chiama Radio Cerrano ed è un po' l'emblema anche di un parco marino, che è il parco marino Torre del Cerrano, beh, diciamo che questo brano doveva essere... Ti svelo, Carlo, vedi? Ti svelo che quella visione dalla collinetta è proprio dall'altura del Cerrano e guardavo il mare. Appunto, ho immaginato e dicevo, questa cosa è bella. Giuro che non l'avevamo preparata. No, assolutamente no. È stata una cosa del tutto... Fa piacere che tu l'abbia... Perché il posto è quello, sono veramente... È stato veramente, contento. Sì, beh, è stato veramente, diciamo, toccante questo. Io vi ricordo che siamo in rigorosa diretta, ormai sono le 21:36 minuti primi, e state ascoltando Radio Cerrano, naturalmente una web radio che trasmette dalle zone del Cerrano, delle terre del Cerrano, che poi sarebbero Atri, Pineto, Silvi, Roseto, ecco queste zone qui. Quindi siamo in Abruzzo, trasmettiamo dalla collina noi, e quindi è una radio che potete ascoltare su diverse piattaforme come TuneIn, come Radio Garden, come Facebook, radio.net, e poi anche Listen to My Radio, come dicono gli americanizzanti. E naturalmente abbiamo anche un blog, che è radiocerrano.net, dal quale potete ascoltare direttamente le nostre trasmissioni. La trasmissione di questa sera, che è una scheggia impazzita, quindi una mia scheggia, è dedicata completamente a Voglia di correre di Elio Forcella, o meglio, è dedicata interamente a Elio Forcella, ai suoi ricordi, al suo libro, l'ultimo libro, Voglia di correre. E ad Elio vorrei chiedere questo: ma come mai questo titolo? Questo è un classico, eh? Sì, dunque, di questo romanzo due sono gli elementi essenziali: la corsa e la memoria. E attraverso, perché il protagonista, di nome Mario, correndo, ripercorre la sua vita. E come già abbiamo detto, ripercorre 50 anni dai primi anni, dalla metà degli anni 50 nell'Italia rurale contadina, per passare poi alla gioventù sognatrice e rivoluzionaria delle utopie sessantottine, sino ad arrivare al disimpegno, al disincanto dei giorni nostri. E la corsa, dicevo, rappresenta sia come attività fisica, come vitalità, ma anche come metafora della libertà. ecco, vedete. E quindi il testo, il non è mai, non è mai pleonastico fare la domanda da dove arriva il titolo del libro, dell'opera in particolare, perché logicamente l'autore tenta, o spesso, anzi quasi sempre ci riesce, di condensare, no, nel titolo un po'... Sì. No, ti dico di più, Carlo, io non credo che ognuno poi abbia un suo modo di scrivere, di ziolare un'opera, un romanzo, quello che è. Io personalmente, se non ho il titolo, non riesco a scrivere il romanzo. Cioè la prima cosa che devo scrivere, che devo pensare, è il titolo, perché poi da lì mi parte tutto. Tu per esempio, il prossimo, che è quello che sto scrivendo adesso, che si chiama Cani di strada, se non l'avessi... da lì mi scaturisce molti lo mettono alla fine, per esempio, il titolo, danno il titolo all'opera alla fine. Io devo farlo all'inizio. Io, no, questa cosa mi fa pensare, perché a me piace tanto fare foto. Certo. Ho partecipato a diversi concorsi, anche con qualche buon risultato, diciamo. Però a me riesce sempre difficile titolarle le foto. Credo che sia una forma d'arte, di espressione artistica diversa. Un po' diversa, sì. Perché la foto, a meno che non è quella da studio, quella studiata, diciamo, creata praticamente artificialmente, tra virgolette, quella sì, puoi titolarla prima, ma quella che tu fai, la foto che scatti, anche l'istantanea, anche se poi ha bisogno di parecchia tecnica, non è che poi ti viene, altrimenti non è che viene granché, quella lì sicuramente non ha il tempo di pensare prima al titolo, chiaramente. Tu scatti la foto e poi titolarla. L'unica, a volte trovo banale invece, secondo me dovresti dare il titolo all'emozione che hai provato tu nel scattare quel momento, ecco. Secondo me, perché se no dire studio, per esempio, studio 5, visione notturna 6, come vedo alcuni titoli, mi sembra un po' non dare il giusto valore a quello non dare la giustezza di quello che tu hai voluto dire, cioè, perché penso, se è un'opera d'arte, penso, sempre partiamo di opera comunque artistica, espressione sì. artistica, penso che tu dentro te sai quello che avevo voluto dire, voluto fare, allora perché non dargli sì. quel titolo? Questo è un consiglio che... No, che non è questo, è il mio modo... O quello delle emozioni, è vero, sì, è vero. Anche l'emozione perché... che hai provato, quindi sì, poi... Sì. Che in fondo credo che la correlazione tra foto, musica, eccetera, sì. sia proprio quella anche di, sì, ma di fermare un po' il tempo. Sì, l'opera d'arte... Noi stasera stiamo ripercorrendo il tempo attraverso la tua opera e l'opera musicale di artisti famosi, tra i quali, insomma, abbiamo ascoltato adesso Lucio Dalla con un celeberrimo come Profondo il mare, che tra parentesi mi ha riportato alla mente un concerto magnifico che ho ascoltato tanti anni fa a Bologna, proprio di Lucio Dalla, e mi riporta alla mente anche un mio carissimo amico che purtroppo non c'è più, che è le nottate passate dentro la sua macchina ad ascoltare quello splendido brano e quell'intera cassetta, perché in quel periodo andavano le cassette, che l'intera cassetta di Lucio Dalla. Io sto con quelle più piccole. Sto con ancora quelle più piccole. Stereo 4 le ho solo. Ma così. Secondo te si ascoltano ancora in macchina le canzoni oppure no? Sì, io credo. Io sono uno di quelli che la musica, senza musica. Non riesco a stare. Perché mi hai ricordato la mente anche questo, anche tu adesso, perché in effetti noi passavamo intere nottate dentro una macchina con un registratore geloso a volte, sì. sai, quella a nastri, ascoltare musica. Sì, io la cosa che mi... Ecco, ma a parte ascoltare musica, ma io mi ricordo comunque che si passavano le nottate, credo che l'abbia fatto anche tu. Qualche canna. Qualche birra. A parlare anche di musica. Sì, no, poi ascoltare musica non significava soltanto stare lì e partire per un trip, sì. ognuno a modo proprio. Sì. o con una birra, con qualche piccola, vabbè, qualche prodotto, vabbè, qualche canna, allora lo chiamavamo Spinelli, ma non era solo quello, era come dici tu, poi si parlava tanto, non si parlava solo di musica, ma si parlava di sì, noi, perché poi io credo della nostra, io sono un po' più piccolo di te, no? E quindi io vi vedevo un po' come, diciamo, il vate no, numero, vabbè. Sì, è così, perché comunque la persona più grande, la persona più impegnata, anche io ho avuto sempre questa visione, no, di determinate persone, personaggi della città, ma credo sia successo un po' a tutti. A noi non è successo, perché la generazione prima di noi era quella allineata e coperta, quindi noi invece siamo andati contro, quindi non avevamo punti di riferimento. Quindi io avevo voi come punti di riferimento, questo lo devo dire, no? Per esempio l'ho detto più di una volta qui Emilio, per me musicalmente, ma anche certo, altri sono stati proprio dei fari a cui poi mi sono rivolto, e la cosa bella è stata che non mi hanno indottrinato, nel senso mi hanno consigliato, e io poi ho fatto il mio viaggio, hanno aperto delle strade. Il mio percorso, sì, è stato questo. Io dicevo che poi quelle nottate passate in auto era poi sempre e comunque, perché questa era un po' la nostra fissa, la ricerca del messaggio, perché noi dentro la musica, dentro i cantatori, dovevamo ritrovare questo messaggio, no? Che dice, che vuole dire, che ha voluto dire. Era anche un po' spasmodica sta cosa, anche per noi lo era. Però ti dico, era anche un modo, si parlava tanto, cioè si parlava, non chiacchierava, si parlava, cioè si cercava, si ricercava. Poteva essere spasmodica, sì, però avevi, e per parlare, per ricercare, tu dovevi leggere prima, Carlo, e si leggeva, quindi si leggeva pure, cioè a volte anche superficialmente, ma si leggeva, a volte magari un po', come abbiamo detto, un po' incanalati, ma si leggeva. Che adesso vedo molto i libri. Prima era difficile trovare qualcuno che non leggeva un libro, adesso invece è difficile trovare qualcuno che lega un libro. Sì, questo è mi vero. Pare, fra i ragazzi. Cioè, io mi ricordo che forse anche in maniera un po' distorta, ma comunque l'impegno era, c'era. L'impegno era fondamentale, nel senso che se non leggevi, se non ti acculturavi, tra virgolette, quindi se non ti impegnavi, stavi fuori da determinate cose. Era il periodo che dicevamo, si usciva, come hai ricordato, la resistenza, ma si usciva anche da quel modo di pensare che leggere, studiare, leggere, apprendere, sapere, ti liberava in qualche modo, ti libera. Stare nell'ignoranza era il discorso che faceva. Invece rimani schiavo, invece comunque, secondo me è ancora valido ancora adesso, cioè se tu leggi comunque puoi aprire la tua mente, se non leggi niente, Carlo, solo con la televisione, solo con... chiudi la tua mente, non apri. Quello che attualmente noi sociologi chiamano ascensore sociale, noi questa cosa dell'ascensore, noi questo ascensore lo prendevamo attraverso la lettura, lo studio, la lettura dello studio, perché poi i nostri genitori, dobbiamo dire anche questo, i nostri genitori scarsamente acculturati ci dicevano: studia, perché se non studi era un modo di riscatto sociale, puoi trovare il posto migliore, Io mi ricordo mio padre invece mi diceva proprio questo, mi diceva: devi studiare, perché lui parlava sempre, no, diceva: nessuno poi ti potrà parlare difficile quando nessuno ti potrà fregare, come hanno fregato me. Questo questo è un po' la paura, dicevamo, l'ignoranza era questa era la paura. Il potere ha sempre tentato di e ci è riuscito per parecchi periodi storici a tenere il popolo in ignoranza. Sì, ti ricordi noi quel periodo che dicevamo la Democrazia Cristiana prende sempre il ministero e pubblica istruzione, però stranamente quel periodo, però, Carlo, se tu ricordi, non le interessava la cultura, una cosa strana, che poi invece adesso il potere di adesso la cultura era di sinistra, esatto, lasciamola a loro, sbagliando, forse adesso avranno capito che è un'arma molto pericolosa la cultura. Sì, adesso poi si sono affinati tutti gli strumenti, hanno affinato tutti i mezzi, io direi che adesso nel post-industrialismo che stiamo vivendo, insomma, tutte queste cose che diciamo sembrano veramente cose attribuibili a dinosauri, e in fondo non è che sono passati 100 anni, sono passati scarso 30-35 anni, sì, diciamo, sì, che nella storia insomma non è molto, però nei miei studi, nelle mie frequentazioni, la cosa che ho capito è che, e che purtroppo siamo vittime o protagonisti, dipende da che punto di vista ci mettiamo, vittime o protagonisti di un'immensa esplosione tecnologica, e quindi un balzo in avanti talmente grande che insomma noi ci troviamo ancorati, vedi, ai ricordi, i giovani si trovano spaesati, siamo veramente in un marasma collettivo. Sono d'accordo con te, Carlo. Io dico che adesso è la società dell'apparire, questo è un problema, perché non conta chi sei, ma come appari. Cioè, anche i social network, se tu vedi i post, a parte le parecchie stronzate che ci stanno, io non dico che non sono utili, per carità, sono anche utili, però ho l'impressione che la gente tenta di mettere ciò che vorrebbe essere, non c'è quello che effettivamente, e da questo punto diventa anche questo un inganno, cioè non siamo noi stessi. E allora che fare? Beh, so cavoli. E io sono un po' più catastrofico di te. So cazzi. Meglio mandare la musica, allora, sì, poi te lo spiego. Penso che possiamo ascoltare Impressioni di settembre. Senti rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero vola e va, ho quasi paura che si perda. Fermo come me, faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. Tanto E io credo che noi in quel periodo non ci rendevamo conto un po' di quanto l'asticella fosse stata innalzata da questi brani tipo Impressioni di settembre, che vi ricordo è targato 1971, il brano è di Mogol, la musica è del duo Pagani Mussidda, che poi sarebbe la PFM. La PFM, lo ricordo solo per un po' i più distratti o i più giovani, è forse l'unico gruppo italiano che riuscì a sfondare un po' anche negli altri mercati, nei mercati americani e in quello anche inglese, e diciamo che se uno rilegge il testo di Mogol e poi un po' si orienta un po' di quello che c'era in giro in quel periodo, si rende conto di come questo paroliere, secondo me insomma è diminutivo, insomma questo artista è riuscito a cambiare, insieme poi anche a Battisti naturalmente, a cambiare veramente il modo di scrivere e di fare musica, ma di scrivere, io direi, perché veramente si è passati da brani così stancamente o così abbastanza retorici a un modo di scrivere fatto, ecco, di impressioni, di visioni, e credo che Mogol in questo sia stato geniale e innovativo. Tu che ne pensi, Elio? Sono d'accordo su Mogol, non sono d'accordo su Battisti. E lo sapevo che non eri d'accordo su Battisti, questo è stato un trabocchetto. No, ma a me Battisti è quello. Comunque... Qui c'è un retropensiero, vero? Il vecchio retropensiero. No. Ti dico, a risentirla adesso delle canzoni, il discorso che facevamo prima dei Battisti, sicuramente mi ricorda il periodo della mia giovinezza, quindi sono anche, tra virgolette, piacevole di riascoltare, però allora non mi piacevano e credo che non mi piacciono neanche adesso, perché cercavo un altro tipo di musica. Non ci piaceva. No, tu hai citato la PFM, giustamente, perché che hai seguito il brano, ma io potrei, abbiamo parlato prima, parlavamo degli Area fra di noi, ma ti potrei dire il Banco del Motosoccorso, insomma, era il progressive italiano, insomma. Però al di là di questo, indubbiamente le parole di Mogol erano, cioè era un grande paroliere, come tutto un artista, credo, a tutto tondo. Io ho avuto la fortuna di intervistarlo 2-3 volte, Mogol. Oddio, non è che ha un carattere simpaticissimo, però comunque è veramente un maestro. Io poi mi sono andato a rivedere, questo sempre col senno del poi, perché sono andato a rivedermi, in effetti ho letto anche libri, ho letto articoli, ed è vero, soprattutto, ma questo sicuramente lo saprai anche tu perché scrivi, nella scrittura è stato geniale, è stato veramente rivoluzionario nella scrittura del brano, dei brani. Ma questo sicuramente, poi io non è che poi ho seguito molto, ti ripeto, quelli di Battisti, però ti volevo dire, se tu parli di genialità, e io direi genialità sia come parole, come testo e quindi come musica, beh, allora, anche se in inglese, io preferisco The End. Sì, per l'amore. No, perché ce l'ho sotto mano, Ce l'ho sotto mano, mi è capitato per caso. Vai. No, non è vero che gli è capitato per caso, ci ha perso 10 minuti. È una pagina del romanzo, a caso. Vai. Facci ascoltare questa pagina, poi... O vuoi fare prima... No, ascoltiamo il brano. Il brano, che poi è un brano che a noi è molto caro, vero? Perché ci abbiamo recitato sopra. Sì, abbiamo fatto una performance incredibile. Thank you. This is the end. Beautiful friend. This is the end. Il vero trip io l'ho fatto, seppure a metà. Accadde durante la mia breve esperienza universitaria. Eleanor era una mia amica inglese che avevo conosciuto per caso sui gradini del Duomo, gremiti di studenti e giovani stranieri. Vuoi tu, col suo tipico accento inglese, un sorriso disarmante, ma aveva offerto due boccate dal suo spinello. Io avevo accettato, ricambiando il suo sorriso. Da allora eravamo diventati buoni amici. Un giorno, era fine settembre, mi portò in una comunità di suoi amici hippies. Benché abbia un vago ricordo di quel posto, un antico palazzo abbandonato alla periferia della città, ancora oggi nella mia mente è straordinariamente vivido il fantastico effetto dei murales dai colori accesi disegnati sulle pareti, il loro sovrapporsi ai preziosi damascati laceri cadenti che li rendevano simili a moderni arazzi psichedelici. Stare assieme a quei ragazzi mi piacque il loro parlare di pace, amore e di libertà. Mangiammo poco, bevemmo molto, fumammo tanto. Mi diedero da tirare un cannone. Era una sigaretta di hashish dalle dimensioni enormi, più del doppio di quello di un grosso sigaro. Era accesa da entrambe le estremità. Aveva due fori al centro per tirare. E io tirai più volte. Stavo divinamente bene. Poco dopo però cominciai a sentire un fortissimo mal di pancia. Non dipendeva dal cannone, ma dall'alcol. Uno dei ragazzi ci fece aprire il palmo della mano. Con molta cura depose su ognuno quello che a me sembrò un piccolo cartoncino. Il mio era piccolissimo, la metà di quello degli altri. Credo si trattasse di metadose. Non mi disse cosa fosse, né io glielo chiesi, ma mi raccomandò di appoggiarlo sotto la lingua e di farlo sciogliere lentamente. Era trip. Eleanor mi condusse in un'altra stanza molto particolare, dalla forma circolare, illuminata dall'alto da una finestra, anch'essa circolare. Mi abbandonai su una sedia. Eleanor cominciò a ballare, ballando pian piano si spogliò. Continuò la sua danza vestita solo delle sue collane. Guarda i colori, guarda Mario, guarda i colori, ripeteva girandosi attorno e sfiorando le pareti con le mani, con le mani. Io vedevo i colori materializzarsi sulle pareti. Guarda l'arcobaleno, indicò il soffitto. Al suo posto c'era un fiume iridescente che scorreva calmo e che gradualmente mi avvolse. Mario, sto camminando sopra l'arcobaleno. Cosa fai lì sotto, tutto solo? Vieni, Mario. Quassù è bellissimo. Vieni con me sull'arcobaleno. E Eleanor mi invitava con la sua danza sinuosa. Stordito dal tintinnio delle sue collane che rimbombavano dentro la mia testa più assordante di uno stereo a tutto volume, cercai di alzarmi con l'intenzione di raggiungerla. Tentai inutilmente di togliermi la t-shirt. Il mal di pancia che credevo fosse passato seguì. Oltre alla nausea, adesso mi veniva da vomitare. Vedevo la stanza girare, girava vorticosamente. Il fluido iridescente appariva e svaniva in rapida successione, mutando i colori con altrettanto rapidità, fino a quando divenne interamente rosa. Il moto vorticoso si placò, il soffitto, le pareti, la poltrona di Vimini, anche l'Inor assunsero una tonalità rossa accesa. Tutta la stanza si tinse di rosa e fu a quel punto che non sentii più il pavimento sotto i piedi. Ero scomparso. Spiccai un salto verso la mia amica, la presi per mano e la condussi verso il fluido rosa e grigio. Il soffitto era scomparso come il pavimento. I nostri corpi allungati e sinuosi cominciarono a volteggiare nel cielo, al di sopra della stanza. Scomparve anche lei. Questa è la fine, mia bella amica. Questa è la fine, ma mia sola amica. La fine. This is the end. Questo credo sia stato un brano emblematico e così come emblematico credo sia il tuo affresco fatto nel tuo libro, perché in fondo è un affresco che spiega pienamente come si viveva in quegli anni, che tipo di libertà, no? la gente, o soprattutto i giovani, volevano. Quindi anche libertà nei costumi, libertà totale, ma fatta sempre con alla base, no? Peace and love, no? Pace e amore. Qualsiasi guerra veniva ripudiata, soprattutto quella del Vietnam 68-69, anche se credo questo avvenga più in là, questo tuo... Gli strascichi della guerra del Vietnam si sono portati negli anni, però, perché il 69, 70, non so poi quando poi è finita la guerra, quando gli americani sono... Sì, 68-69. Però al di là di questo... tutto il movimento pacifista, che poi il movimento hippie, il movimento del peace and love che dici tu, figli dei fiori, si muoveva attorno proprio non solo al ripudio proprio dell'autorità costituita, ma soprattutto era un movimento pacifista, era contro la guerra, per la non violenza. Questo credo che sia, questo che sto per dire, credo che non sia una cosa abbastanza sconosciuta. Nel senso che nel corso dei miei studi riguardanti la comunicazione mi sono imbattuto in una serie di libri che mi hanno aperto la mente. All'epoca, no, la sconfitta dell'America da parte di un così piccolo stato come il Vietnam era una cosa che, insomma, nessuno riusciva a spiegarsi. Neppure gli americani. E tu pensa che gli americani negli anni susseguenti la guerra del Vietnam fecero uno studio proprio sulle cause di questa sconfitta e aprirono una sezione del Pentagono per scoprire appunto le cause, come mai abbiamo perso una guerra in cui avevamo uno strapotere militare. E alla fine i grossi esperti di comunicazione si accorsero che la guerra era stata persa perché l'intera opinione pubblica mondiale era contro questo tipo di guerra, cioè la sindrome, no, del Davide contro Golia. E da quel momento in poi, quindi dagli anni 70 e in poi, l'America ha sempre preparato le guerre seguenti, le ha preparate a livello mediatico, a livello comunicativo. Tant'è vero che, se tu ricordi, così io cito nelle mie lezioni così fatte agli studenti, ho avuto la fortuna di fare delle lezioni sulla comunicazione alla facoltà di sociologia, io spiegavo appunto, e tutti rimanevano un po' con la bocca aperta, se uno ricorda l'aggressione, io la chiamo aggressione, o comunque la guerra, la prima guerra del Golfo, ci si accorge che è stato tutto pilotato, no? Le guerre di le armi di distruzione di massa che non si sono mai trovate, ma questo è iniziato 3-4 anni prima, poi alla fine tutti eravamo convinti che fosse giusto invadere l'Iraq e soprattutto anche la manipolazione della comunicazione e tutto questo arriva dalla guerra del Vietnam. Questa è una cosa che io le prime volte c'è un libro splendido che mi aprì gli occhi sotto la notizia niente, parlava appunto di questo, parlava di questo tipo di comunicazione e poi alla fine uno si fa i suoi conti, riguarda un po' quelli che sono stati gli avvenimenti storici e ci si accorge in effetti che è vero, tutto è stato preparato, ma preparato con una maniacalità incredibile, nel senso di scrittori a soldati dalla CIA, di giornalisti a soldati dalla CIA, che alla fine uno dice sì, in effetti è vero, bisogna invadere l'Iraq, bisogna uccidere quel dittatore che poi era stato finanziato prima dagli americani, insomma ti accorgi che siamo delle piccole e piccolissime pedine in un gioco molto più grande di noi. Elio si è rimasto io da studente sto seguendo la collezione. Questa cosa la spiego spesso, perché comunque ci dà un po', credo, la dico spesso perché sì, ci dà il senso, la misura di quali siano le forze in campo attualmente, no? Noi prima parlavamo dei giovani, prima stavamo parlando, ma questi giovani non si ribellano più, non... Però le forze in campo sono queste, in fondo, sono enormi. Stiamo parlando di cose che passano sopra le nostre teste. Cioè, se pensi che il autore della strage di Piazza Fontana è tornato adesso in Italia per scontare il... Stiamo parlando di una cosa di 40 anni fa. È veramente un po', come dire, avvile. Rende comunque attuale il tuo libro, in effetti. No, io avevo un dubbio, scusatemi un po' questa, come dice, ha detto Elio, questa piccola lezione, ma avevo, sì, purtroppo anche abbastanza, come dire, deprimente. Questo libro poi, in fondo, abbiamo detto che non è didascalico, non vuole insegnare niente a nessuno, però poi una piccola morale... ci sarà? Elio, ti ho fregato. Ti ho fregato. Non lo so se c'è una morale. O comunque un, tra virgolette, no? Chiamiamolo messaggio, chiamiamolo come... Però in fondo, ecco, magari tu ripercorrendo questi anni, che cosa... Che sensazione hai avuto? Che tipo di... Ci abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male... No, credo che non si possa giudicare in questi termini se abbiamo fatto bene o male, oppure se ci sia una morale. Credo che si tratta di prendere quello che ci sta, che ho scritto nel romanzo. Cioè, tu prendi, se le hai vissute sicuramente quelle situazioni, comunque le hai sentite, se non in prima persona, ti toccano. Se no, credo che sia un ottimo mezzo per conoscere, me l'ha detto anche una ragazza, che credo una giovane ragazza che poi è impegnata nella moda, una stilista, una giovane stilista, mi ha detto: io avevo sentito parlare di questi anni e non avevo mai capito bene che cosa fossero, che cosa aveste fatto voi di quella generazione. Leggendo il libro, soprattutto guardando il resto, nel resto adesso so. Questo è un bel complimento. Sì. Ma guarda Carlo, di complimenti ti devo dire c'è stato questo, tanti, però ti devo dire un altro è stato, è quello che mi fa più piacere, al di là, ha ricevuto anche dei premi questo romanzo, però al di là dei premi più o meno importanti, che poi chiaramente hanno anche il loro valore, soprattutto se si tratta di premi importanti, ma il complimento più bello è stato quello di un cinquantenne, cioè uno che conosco, che mi ha detto: io non avevo mai letto un libro, il primo libro che ho letto è stato il tuo. Guarda Carlo, mi ha fatto un immenso piacere, questo ti posso dire. Se mi avessi detto hai vinto il Pulitzer, vabbè, mi ha fatto piacere, ma questo mi ha fatto emozionare, ecco, lì hai un altro tipo di soddisfazione, ma questo invece mi ha emozionato, ho sentito i brividi quando lui mi ha detto questa cosa, brividi tutto. Io a proposito di questo, no, tu adesso mi hai tirato questo i capelli, che per me è un eufemismo. Anche per me. Per Carlo Mix. Per Carlo Mix no, per noi sì. È un eufemismo. Però ecco, questo apre un altro discorso abbastanza, credo, interessante, no? Cioè, la lettura, lo abbiamo un po' preso di striscio prima, ma la lettura o comunque questa voglia di questa, insomma, retrosia, direi, del popolo italiano a passare le proprie ore su un libro, secondo te questo a che è dovuto? Nel senso, cosa c'è dietro a questo fenomeno? Siamo uno tra i popoli in Europa che legge di meno. Non lo so Carlo, sinceramente non so risponderti, però vedo, forse manca questa cultura del leggere, nel senso che anche i quotidiani siamo ultimi al mondo, non solo per i libri, sì. non in Europa. No, ti dico che io quando lavoravo in un quotidiano, a noi mandavano mensilmente delle ricerche che il quotidiano commissionava, ed ogni mese lì c'erano praticamente le indicazioni di che cosa leggeva il lettore del quotidiano in un articolo. Bene, ogni lettore leggeva, a parte lo sport, ma leggeva solo, legge solo le prime 100 parole di un articolo, compreso il titolo, 100 parole che sono 4 o 5 righe, non di più. E sta cosa più passava il tempo più si abbassava. Arrivava a solo al titolo. Sì, sì. Magari si arriva solo. No, Carlo, credo che leggere, come scrivere, come dipingere, costa fatica. È vero. Cioè, non è un qualcosa, ci devi stare per leggere. E forse questo che ci manca un po', questa starci significa starci con la mente, con la testa, stare si preferisce non impegnarsi. Allora è meglio magari il quotidiano sportivo, che poi ti metti, vai al bar, ti metti a discutere, cioè. Invece leggere costa fatica, anche un libro semplice costa fatica leggere, perché non siamo abituati. Ma adesso perché non siamo abituati come altri cose a leggere, non so dirtelo. D'altronde noi, per esempio, a teatro siamo nei paesi più indietro. Se vai in Inghilterra, in Francia, le pièce teatrali vengono riproposte per mesi. Qua invece, dopo, anche nelle città, dopo 6-7 repliche vengono ritirate. Quindi, io credo che quando all'inizio tu stavi dicendo quelle tue, no, sensazioni della lettura, tu dicevi in fondo è un viaggio, sì, che io intraprendo quando scrivo e quando leggo, e questo viaggio poi non so dove mi porterà. Questo significa che sicuramente, come dicevano i filosofi di una volta, ognuno di noi legge il suo proprio libro e si fa il suo la propria storia, il proprio viaggio nella testa. Io credo che molto sia collegato, infatti, al ragionamento, cioè al fatto di vivere nella società delle immagini. Sempre nei miei studi, insomma, si parlavano di comunicazione. Per esempio, nei social, i cosiddetti social planner si chiamano adesso, cioè quelli che pianificano un po' la comunicazione su questi social, sanno benissimo che tu il messaggio, se non lo veicoli attraverso un'immagine, il messaggio non arriva. Allora il discorso è questo: viviamo in una società in cui c'è una bulimia di immagini, e quindi il farsi la propria storia, no? Farsi la propria immagine attraverso un libro, il proprio viaggio, come dicevi tu, diventa faticosissimo, perché te lo spiattellano, o comunque la realtà te la spiattellano tutti i giorni di fronte agli occhi, credendo, e qui c'entra anche un altro discorso legato agli occhi, appunto, alla veridicità degli occhi e del cervello, credendo che quella sia la realtà, ma in fondo non lo è. L'approfondimento non è più di moda. Sì, è lo stesso discorso che abbiamo fatto prima con te quando ci siamo messi d'accordo per questa trasmissione, quando abbiamo preso l'appuntamento. Cioè, io preferisco la radio alla televisione, per esempio, perché mi dà la possibilità di immaginare e di far camminare, di far viaggiare la mia mente. La televisione ti propone quelle immagini e tu segui quello che ti... Invece con la radio io posso andare oltre a quello che sento. Ma qui torniamo a quel discorso: la radio presuppone attenzione, però. Sempre. Perché se non c'è attenzione ti sfugge di mano la situazione, e quindi non siamo più abituati a essere attenti. Ma se vogliamo continuare a vivere nella superficialità, allora vabbè, cioè, Carlo. Vabbè, io non lo so, io non sarei così catastrofico, perché poi in fondo incontro ragazzi giovani che generalizzato, sì, per carità, sì. Però insomma c'è questo, che poi, tra parentesi, il discorso che faceva sull'immagine, anche prima si leggeva, anche prima di questa esplosione della società dell'immagine, si leggeva di meno in Italia. Sì, si è sempre, è vero, questo, sì. Dovrebbe credere uno storico, Sì, è vero. È vero, è vero, questo è vero. Noi siamo un popolo che, insomma, con i libri sono più quelli che scrivono che quelli Sì, questo è vero, cioè, quasi tutti scrivono, hanno scritto un libro di poesia o di raccolta. Sì, è vero. Siamo un popolo di scrittori. Non siamo un popolo di lettori. Invece che prima di scrivere bisogna leggere, ma questo è sì, questo è sicuro, anche perché la lettura, insomma, come dicevi tu, apre la mente. La lettura e la musica. Adesso che ci propone Carlo Mix? Penso che un vecchio brano. Sì. Sì. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool. Found you, now go and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Se vogliamo parlare di... Scusa, ma era così buono questo dolce al cioccolato? Sì, gentilmente offerte dalle brasiliane che abbiamo come coinquiline. A proposito, Carlo, queste sere dobbiamo fare un programma di musica brasiliana. Sicuramente. No, stavamo ricordando in fondo che a modo loro anche questi che stiamo ascoltando, insomma, ne abbiamo parlato nel mio programma, nei miei programmi precedenti, i Beatles rappresentano una svolta musicale insieme a Rolling Stones e ad altri, ma era appunto un periodo fertile, un periodo, come dire, super fertile per la musica, per il rock, per la cultura in genere, e la cultura diventava proprio una vera e propria locomotiva per ho fatto l'aggancio. È piaciuto? Non avevo mai immaginato questo tipo di aggancio, te lo posso dire. Oh, vabbè, è venuto così, sai, del vecchio DJ. Creatività del vecchio DJ. No, perché ho detto sta cosa, adesso devi spiegare tu. No, perché adesso ascolterete la locomotiva di Francesco Guccini. Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali. Parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro ai re, ai tiranni, scoppiava nella via. La bomba proletaria illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia. La fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti agli ori, pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava a un treno pieno di signori. Pensava un treno pieno di signori, pensava un treno pieno di signori. Non so che cosa accadde, perché prese la decisione. Forse una rabbia antica, generazioni senza nome, che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore. Dimenticò pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua, la macchina a vapore, la bomba sua, la macchina a vapore, la bomba sua, la macchina a vapore. sul binario stava la locomotiva. La macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. È un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo. Pensò che avevi il modo. Corri Mario, corri. Devo aver sognato. Infatti, senza rendermene conto, ho percorso un altro tratto di strada. Mi ritrovo a correre lungo lo stesso tratto iniziale, ma nella direzione opposta. In mezzo a una tavolozza verde e macchie di fiori di campo multicolori che si perdono a vista d'occhio. Sento lo stesso inebriante odore d'erba bagnata, mista a quello intenso del mare. Riconosco la sua voce potente, anche se non riesco a vederlo, coperto da alte dune e folti cespugli di rovi. La mia corsa però non è più la stessa, il mio passo è diventato pesantissimo. Il mio respiro si è fatto affannoso, il mio cuore batte così forte da stordirmi. Il sudore mi brucia gli occhi. La fatica sta esaurendo rapidamente le pochissime forze rimastemi. Sfinito dalla corsa riesco a malapena a sollevare le gambe. Eppure non ho nessuna intenzione di arrendermi. Io continuo a correre, ripeto a me stesso, confidando in inesperate energie prese chissà dove dentro di me. Illusione di un attimo, le mie gambe non rispondono più alla mia volontà, si muovono come se non mi appartenessero, come in un film a rallentatore. Ansimo, boccheggio, vacillo. Tra poco sarò costretto a fermarmi. Ancora qualche passo. 3, 2, 1. Mario, sento di nuovo chiamarmi. Di sicuro si tratta di un altro sogno. No, non è un sogno, sono sveglio. Allora chi è che mi sta chiamando? Chi è che mi sta spingendo alle spalle? Chi è che mi fa continuare a correre? Chi è che mi sussurra all'orecchio? Corri Mario, corri, non fermarti. È il vento. Adesso sta soffiando dietro di me. Adesso le sue folate rendono di nuovo leggero il mio passo. Adesso sto correndo nel vento. E la mia corsa non è più una sfida contro di lui, alla ricerca di risposte dimenticate a domande inesistenti. Adesso capisco. Gli dico, capisco quello che volevi suggerirmi sin dall'inizio, quando sbuffando contro la mia faccia avevo creduto volesse arrestare la mia corsa. Mi stavi ricordando invece di un corteo di giovani che prendendosi sotto braccio e gridando i propri slogan si lanciava lungo la strada col sogno di spazzare via il vecchio mondo. Purtroppo il vecchio mondo non è cambiato. Neanch'io sono cambiato, grida il vento, ma lui lo sa. Sa che non ho dimenticato quel sogno. Sa anche che non è un sogno come gli altri, non scomparirà dalla mia mente quando mi fermerò a riprendere fiato. Il vento sa che continuerò a correre inseguendo quel sogno. Bene, questo era un estratto dal libro di Elio Forcella, Voglia di correre, e lo potete trovare, facciamo anche un po' di pubblicità, insomma, lo potete trovare su Amazon, lo potete trovare su... Dove Elio? Dove lo possono trovare? In libreria, sì, sì, poi su internet, alcuni siti sì, si stanno, sì. Non ricordo tutti. Bake Mono, sì. Lab, e la casa editrice, giusto? No, il Viandante, la casa editrice, una piccola casa editrice di Chieti. Benissimo, quindi io ve lo consiglio l'acquisto, perché comunque costa solo 10 euro. Prezzo popolare, non poteva essere. No, mi sono imposto veramente. Era un prezzo popolare, ho detto sì. Non superiore a 10 euro. È giusto anche perché voglio dire, ma si può anche in ebook? Non so se sia passato ancora su ebook, non lo so ancora. Va bene, ci informeremo. Sì. Allora, io credo che la scelta che hai fatto per chiudere questo nostro incontro sia giusta, sia anche in qualche modo obbligata, perché credo che hai scelto Gaber, no? La libertà. Ma è il più disincantato degli autori italiani, cioè quello che forse arrivò prima degli altri nella comprensione del disimpegno che stava arrivando e comunque della mutazione genetica che stava avvenendo all'interno della società italiana. E la libertà di Gaber è sicuramente un viatico, però allo stesso tempo è anche un po' una fotografia, no? Di quello che in Italia ormai si stava verificando. Forse noi non ce ne accorgevamo, però ecco, chi ha le antenne aveva capito prima. Sono d'accordo, Carlo, non parlo perché sono d'accordo. Sei sempre d'accordo. No, io volevo, no, vero, volevo chiederti se alla fine di questo incontro c'era da salutare qualcuno, c'era da ringraziare qualcuno. Sì, potrei ringraziare voi, due Carlo, Carlo Mix e Carlo Anello, che mi hanno dato la possibilità di questa trasmissione. E, tra parentesi, tu hai citato Elio, io qui mi chiamo Karl Bartelboom. Carlo Marx. No, Carlo da Marx, ma Bartelboom dal personaggio di un autore a me preferito, da me insomma amato. Vabbè, tantissimo. Comunque va bene. Insomma, no, ti chiameremo Carlo Bartelboom. Bartelboom. Che sono io, come dicevo Toto. No, ti stavo dicendo che oltretutto la libertà conclude anche il recital, quindi è giusto che concludiamo anche questa trasmissione con queste canzoni. I tuoi prossimi impegni? A parte il libro che stai per finire. Credo, sì, il libro spero che entro l'anno lo concluda, l'anno sta per finire. E che ti impegni? Sì, stiamo questo recital, penso che daremo una rivista al Restal, perché non è giusto portarlo sempre allo stesso modo una cosa, quindi penso che lo spettacolo amplieremo questo recital. Per adesso è questo, poi credo che quest'altro anno sarò al Salone del Libro con Voglia di Correre a Torino. Ero stato invitato quest'anno, non sono andato, ma mi ero promesso di tornarci, quindi sarebbe una bella... Questa è una bella notizia. Credo di sì. Questa è una bella notizia anche per noi della radio, perché comunque il proposito che abbiamo qui nel fare questa radio, l'abbiamo detto più volte, adesso lo ripetiamo, vi ricordo, state all'ascolto di Radio Cerrano Web, è una radio che parla delle nostre realtà, quindi a noi fa piacere mettere in evidenza quello che culturalmente, musicalmente, chiamiamolo come vi pare, viene fuori da questo territorio, anche perché la web radio nasce proprio con questa funzione, con la funzione di riportare a galla situazioni invece che i grossi network hanno dimenticato o a cui non sono interessati. Questo si chiama valore di notiziabilità, il nostro valore di notiziabilità, il tuo valore di notiziabilità qui è molto alto e quindi noi siamo contenti che questa cosa lo porterai a Torino. Carlo, ti ringrazio. Carlo, sì. Com'era? Bartelboom. Bartelboom. No, devo fissarlo. Quei nomi ho un po' di difficoltà, però una volta è Oceano Mare. Se tu leggi, sì, Baricco, sì, non so se è un tuo autore preferito. Insomma, se tu leggi Baricco, lo troverai in uno dei suoi libri più importanti. Allora, tu mi hai detto una conclusione, sì. Salutare. Il romanzo finisce con queste parole che ho detto prima: il vento sa, dice il protagonista, che continuerò a correre inseguendo il vento. Allora io dico a chi ci ascolta, Mario conclude così, e voi che ci ascoltate continuerete a correre, oppure vi siete fermati sul bordo della strada incapaci di proseguire la corsa, o addirittura avete perso la voglia di correre. Io spero di no. Anch'io spero di no. Io e te lo sai, no? Noi corriamo e la nostra meta è il Portogallo, quindi correremo fino al Portogallo. Tu sarai costretto a imparare il portoghese, quindi a scrivere in portoghese. Non penso che vabbè, sia importante, non però mai fermarsi nella propria corsa. Ma sai, ti dico perché piace il Portogallo, ma al di là, perché magari gli ascoltatori non sanno. Ci ascoltano anche in Portogallo. Sì, mi piace il Portogallo perché c'è l'oceano.